da una sete di verità. Cercano di dare un senso ai fenomeni, oltre la superficie delle cose e dentro se stessi. Ma qualunque sia il cammino intrapreso, prima o poi devono tornare al punto di partenza. Devono tornare al punto di partenza, la propria essenza, il proprio posto nel mondo, il proprio centro di gravità, dove tutto combacia in una danza cosmica.